a zoe un polo due unde. A zoe un polo due unde. A zoe un polo due unde. A zoe un polo due unde. Menu no sunu kuchemea, chepa un polo due unde. Menu no sunu kuchemea, chepa un polo due unde. A zoe un polo due unde. Menu no sunu kujemea, chepe undo eko kwemi.